Mainly Drop. Quello che succede 2011, ve lo testo. Tutto per voi. Questo è il mio street album, dimmi di che parlo. Se mi spingi nello stereo allora sai quanto valgo. Te l'ascolti strada, da Agrigento a Monte Carlo. Se ti piace qualche pezzo non fai meno di cantarlo. Fatti questo viaggio, aria di contagio. Queste taglie grosse dentro il mucchio selvaggio. Dimmi qual è il plagio, tutti all'arrembaggio. Sono troppo hardcore ma posso essere anche gaggio. Fai pure un sondaggio sopra Facebook. Vedi bimbi minchia con facce tipo Cook. Cambia il look, se vuoi somigliarmi. Io faccio il pop, non inseguo quattro quarti, boom. Bevo rum con Red Bull, insieme One Killa. La gente salta in aria pure essendo ancora brilla. Root Lion, c'è Big Dropper, scaliamo con le truppe. Come l'uomo gatto a Sarabanda, c'è Sonnerra, le sanno proprio tutte. Mille altri props vanno alla mia gente. Io vi tengo nel cuore, voi tenetelo presente. Sente, sente. Mira faz tudo, é na higiene, no L, em meu dos pés, olé, olé, olé, olé.